Fuori di noi, trasmissione sugli oratori e sul mondo giovanile, a cura di Noi Associazione e Blu Radio Veneto. Cari amici radioascoltatori, bentornati sulle frequenze sempre di Blu Radio Veneto, la radio interdiocesana, che è un bellissimo sito dove potete anche conoscere programmi, progetti, iniziative, www.bluradioveneto.it. Ennesima puntata di Fuori di Noi, trasmissione dedicata al mondo dei circoli oratori, padronati, affiliati a Noi Associazione, l'associazione appunto presente in diverse diocesi in gran parte dell'Italia, che appunto riesce appunto a seguire e coordinare tante belle realtà oratoriali dove ragazzi, adulti e famiglie possono trovare spazio, possono anche organizzare dei piccoli eventi all'interno appunto di questi ambienti fisici, ma anche con uno stile semplice, vivace e appassionato. Ogni settimana al sabato alle ore 14 e domenica alle 12:30 va in onda appunto questo contenitore Fuori di Noi. Voi potete collaborare con noi nella creazione del programma e quindi arricchire questo contenitore mandando per esempio un SMS al cellulare 320 614 6964, oppure mandando un'email a fuoridinoi@libero.it. Questa trasmissione è nata appunto dai comitati territoriali di Padova, Venezia e Treviso, che hanno giudicato importante questo mezzo di comunicazione appunto, che è quello della radio interdiocesana, per raccontare la bellissima esperienza degli oratori noi che sono appunto sparsi in tutto il territorio. Queste realtà sono non soltanto degli ambienti dove si può appunto passare del tempo libero in compagnia, giocando, divertendosi, ma anche proponendo delle iniziative di tipo culturale. Ricordiamo che tutti i circoli affiliati sono anche APS, cioè associazioni di promozione sociale. Cosa vuol dire questo? Che queste realtà possono colloquiare, possono anche interagire e portare avanti dei progetti insieme alle amministrazioni comunali, provinciali e regionali. Possono ottenere anche dei contributi pubblici? Certamente sì, appunto collaborando e realizzando insieme un progetto. Possono ottenere anche il 5 per 1000? Anche questo è possibile, e questo ci viene appunto dal riconoscimento nazionale come associazione. Come fare? Appunto attraverso una pratica che si rinnova annualmente attraverso un centro, diciamo, di assistenza fiscale o un commercialista. Basta semplicemente che il circolo sia in regola con l'affiliazione, che abbia appunto dei soci, dei tesserati, e che abbia tutte, diciamo, le autorizzazioni necessarie per essere appunto oratorio circolo noi. Questo appunto potete saperlo attraverso la segreteria di appartenenza, segreteria territoriale, che funziona appunto in ogni diocesi, diciamo, d'Italia, dove appunto il noi è presente. Ricordiamo che la realtà di Noi Associazione è una realtà nazionale, che nelle scorse puntate, cari amici, abbiamo sentito alcuni interventi, alcuni ospiti come i presidenti territoriali di Vicenza, e abbiamo sentito il presidente territoriale di Noi Trieste, di Noi Venezia, di Noi Treviso, e oggi abbiamo anche una puntata veramente presidenziale, perché recentemente a Verona si è svolto l'Assemblea Nazionale, dove c'è stata l'elezione del nuovo consiglio direttivo a livello nazionale, e avremo come ospite, dopo appunto il primo momento, la pausa diciamo musicale, proprio anche il presidente neoeletto, presidente nazionale di Noi Associazione, e da lui vorremmo un po' conoscere anche quali sono le prospettive, le attese per un'associazione che dal 2002, anno in cui è nata, passerà ovviamente l'anno prossimo al decimo anno di vita. Tante iniziative, tante risorse, numeri molto consistenti, ma li sapremo appunto dal presidente nazionale, e quindi anche tante aspettative, tante necessità, soprattutto in una società che, non dimentichiamo mai di ripeterlo, è in continua evoluzione, in continuo cambiamento. Ringraziamo allora per questa puntata, ennesimo appuntamento con Fuori di Noi, anche la consulenza, la regia di Eddie Dai, cioè i microfoni Cristian Betta, per qualche settimana purtroppo è ancora assente per motivi lavorativi, anche perché sta seguendo un progetto sempre inerente all'oratorio e anche all'azione cattolica, in quanto responsabile anche a livello diocesano. Quindi la salutiamo e speriamo di averla presto, almeno appunto per l'ultima puntata, quella diciamo natalizia prima delle vacanze. Ma adesso allora basta le parole, cominciamo con il primo brano musicale. Abbiamo scelto una cantante italiana con una voce molto particolare, molto calda, molto bella, Malika Ayane, con Come foglie. E ha piovuto il caldo, ha squarciato il cielo, dicono sia colpa di un'estate come non mai. Piove intanto penso a quest'acqua un senso. Parla di un rumore prima del silenzio e poi è un inverno che va via da noi. Allora come spieghi questa maledetta nostalgia di tremare come foglie e poi di cadere al tappeto? Lasciare spazio a chi dice che di spazio e tempo non ne ho dato mai. Seguo il sesto senso della pioggia e il vento che mi porti dritta dritta a te che freddo sentirai. È un inverno che è già via da noi. Allora come spieghi questa maledetta nostalgia di tremare come foglie e poi di cadere al tappeto? Abbiamo iniziato allora questa ennesima puntata di Fuori di Noi, trasmissione dedicata al mondo degli oratori, al mondo giovanile, con la voce calda e la canzone di Come Foglie, appunto, di Malika Ayane. Come dicevo all'inizio, abbiamo una puntata, diciamo, presidenziale, perché abbiamo un ospite al telefono e ci spiegherà appunto perché l'ho definita così. Vediamo, Don Marco, ci sei? Sì, ci sono, buongiorno a lei e a tutti i radioascoltatori. Allora, benvenuto appunto alla trasmissione Fuori di Noi, grazie Don Marco di aver accettato il nostro invito. Prego. Allora, presentati un pochettino, appunto tu fai parte del mondo Noi in qualità di? Sì, io sono presidente di Noi Trento, degli oratori che si raccolgono nella mia diocesi, appunto trentina. Dunque sono qui da diversi anni in questa veste perché l'associazione l'ho vista nascere, ne ho fatto parte fin dall'inizio ed è forse il motivo per cui hanno chiesto a me di rivestire questo servizio, questo ruolo, ecco. Benissimo, Don Marco, allora abbiamo detto che c'è stata un'assemblea recentemente a Verona, assemblea nazionale, appunto, in cui ci sono state le elezioni, è stato completamente rinnovato il consiglio direttivo, quindi dopo due mandati tante persone, appunto presidente, segretario e altri collaboratori non hanno più potuto appunto rinnovare il mandato, quindi c'è stato, diciamo, un rinnovamento totale, un rinnovamento però anche sotto il segno della continuità, perché dal 2002, come tu dicevi, è nata un po' l'associazione, tu l'hai seguita fin dall'inizio, c'è stato molto lavoro perché siamo passati appunto da un'eredità precedente che era l'ANSPI, siamo passati al Noi. E allora io ti chiedo, qual è stata appunto adesso, dopo averla vista nascere, il primo sentimento, la prima emozione che hai provato quando il consiglio direttivo ha espresso, diciamo, il desiderio che tu fossi un po' il presidente, il portavoce di questa grande realtà? Ma un certo senso subito di responsabilità e anche di inadeguatezza, nel senso, la realtà è grande e ha bisogno di essere seguita e sappiamo anche noi quanti impegni abbiamo e alle volte ci sentiamo spesso inadeguati perché non è semplice. Comunque proprio per questo confido sull'esperienza, sulla collaborazione e sulla competenza anche di altre persone insieme a me, sia del consiglio direttivo come anche di chi segue la vita associativa con passione da tanto tempo, e ce ne sono tanti nei nostri oratori. Certamente sì, e anche hai appunto, vedendo un pochettino anche i nomi che fanno parte del consiglio direttivo, una bella panoramica nazionale, perché abbiamo sia persone appunto che hanno una responsabilità al nord, al centro, al sud, quindi avrai, diciamo, un consiglio, un gruppo di persone che come te hanno una certa passione oratoriale, ma che hanno anche una visione territoriale completamente, cioè ampia, nel senso proprio a livello nazionale, che è molto importante, perché magari appunto quando si interviene e non si interverrà più su un territorio a livello appunto di consiglio direttivo, ma si dovrà cercare appunto di vedere anche tutto l'insieme, diciamo, delle realtà che sono sparse, come dicevo all'inizio, in tutto il paese. Chiedo una cosa allora: la passione ti caratterizza per l'oratorio, e quindi immagino che tu creda nella forza di questa realtà. Ma allora ti chiedo: qual è la forza della realtà oratoriale, del padronato, del circolo oggi nel 2011 e appunto nei prossimi anni? Dove sta ancora la forza, la caratteristica secondo te peculiare che spinge anche tante persone, l'abbiamo visto in questo periodo, a fondare, a creare all'interno delle parrocchie, delle comunità, delle diocesi tanti belli oratori? Ma io direi perché l'oratorio in quanto tale si rivela uno strumento estremamente capace, adatto a rispondere a delle esigenze della persona, a dei progetti della comunità a cui appartiene. È uno strumento anche d'utile, direi, perché sa adattarsi al tempo in cui viviamo, cioè al bisogno di incontro semplice, informale, all'accoglienza, al dialogo anche tra le generazioni diverse. Si adatta anche al desiderio di fare, di apprendere, di giocare, in una parola direi di crescere insieme. Quindi per me è un luogo dove le nostre comunità possono rispondere alle nuove sfide educative che ci attendono, che questo tempo chiede a noi, quindi a una presenza nuova che traduca anche i valori del Vangelo nella vita ordinaria, nei rapporti semplici tra le persone, nella crescita delle famiglie, della comunità. E io penso che sia proprio questo che ci permette di fare oratorio. Un oratorio che è aperto in modo particolare alla gioventù, ma non solo, perché è tutta la comunità coinvolta, e quindi oggi l'oratorio può essere proprio sentito la casa di tutti, e dipende da noi farlo diventare, ecco. Certo, Don Marco, facciamo un salto nel passato. Io ho ripreso in mano, e quindi invito anche tutti coloro che ci stanno ascoltando, quindi vari responsabili e volontari che lavorano all'interno dell'oratorio, un book dove credo ci siano tantissime sfide, tantissime anche riflessioni molto belle, che è appunto il book, cioè la raccolta, diciamo, degli atti del convegno di Sottomarina del 2010. Dove tu personalmente, c'è appunto uno dei tuoi interventi, dicevi appunto che legavi appunto il tema della speranza a quello dell'educazione, ma la frase più interessante, la cosa che tu hai detto che mi piaceva di più, era quella che dicevi che bisogna diventare un po' dei falsi dittatori, cioè delle persone che aiutano i ragazzi ad aprirsi a Dio, facendogli scoprire che Dio sta già agendo nel loro quotidiano e quindi nei loro cuori. Questo, diciamo, dicevi, era la missione che hanno tutte le persone che si dedicano gratuitamente all'interno degli oratori per animare questo ambiente. Vuoi magari precisare meglio? Perché mi pare una riflessione molto importante, non tanto per coloro che hanno un oratorio, diciamo, come posso dire, piccolo o grande, ma tante volte noi troviamo stanchezza perché proponiamo attività, forse è perché proponiamo troppe cose, ma non ci fermiamo o non facciamo come riferimento a questa verità che tu hai detto e hai ribadito nel convegno di Sottomarina, cioè il legame che c'è tra l'oratorio e forse anche l'annuncio, cioè l'oratorio è un'occasione, uno strumento anche per annunciare qualcosa, e forse questa è la cosa che rimane nel tempo più che tante attività. Sì, io parto dall'idea che non siamo noi i registi, ma Dio ha già trovato il modo, sa già come parlare al cuore delle persone, nella loro interiorità. Noi dobbiamo essere delle persone che dall'esterno guidano questi ragazzi, facilitano la capacità di individuare questa presenza di Dio. Quindi Dio già opera in ogni persona, Dio agisce nel cuore di ciascuno, nei modi che lui sa e che noi non sappiamo, ma è già presente. Quello che spetta a noi è facilitare questa azione, assecondarla, quindi l'azione educativa dovrebbe favorire questa presenza interiore, aiutare la persona a riconoscerla, a sapervi rispondere. Siamo dei collaboratori, non dei registi. Per esempio, che Dio ci sia è un'idea che i nostri ragazzi hanno già dentro. Non occorre portare chissà quali prove della sua esistenza, anche se sappiamo che ci sono difficoltà che ha il credente. Ma quello che dobbiamo fare noi è dare un volto a questo Dio, rivelare il suo nome, quello che professiamo con la nostra fede. Quindi non sentirci noi i protagonisti, tutto in mano nostra, ma è Dio che già fa. Quindi noi dobbiamo facilitare dall'esterno questa azione di Dio. E quindi il fatto di essere presi dalla mancanza di speranza è perché puntiamo su di noi. Se invece ci sentiamo collaboratori di un altro, non dipende la cosa da noi dipende la nostra parte, ma lui sta già facendone un'altra, che è quella di regia, allora questo ci dà anche più conforto. E certo, e appunto ci motiva di più, e la stanchezza in qualche maniera viene anche misurata diversamente. È molto importante questo. Il prossimo anno, Don Marco, appunto festeggiamo i 10 anni di vita di Noi Associazione. Allora, non so se voi come consiglio, tu personalmente, hai già pensato a qualche progetto, qualche aspettativa, qualche campo dove, diciamo, l'azione di Noi Associazione in questi anni, diciamo, è stata, come posso dire, o meglio, si può potenziare il prossimo anno? Quale tipo di intervento, quale tipo di aspetto secondo te? Ma diciamo, al momento è un po' presto per rispondere, perché stiamo iniziando adesso a trovarci e organizzarci come consiglio direttivo. Comunque penso che, come in ogni realtà, sia da consolidare la vita associativa dei nostri oratori prima di tutto, tenerla sempre viva, poi curare i rapporti dei territoriali con i circoli e gli oratori, i collegamenti, lo scambio tra i territoriali, l'informazione, l'aggiornamento. Ecco, poi nel campo della formazione penso che siano da mantenere e intensificare i progetti che già ci sono, la formazione degli operatori, degli animatori, degli educatori, dei responsabili, e il collegamento con le pastorali diocesane, badando anche alla propria situazione locale, tenendo presente il cammino della Chiesa italiana. Poi penso bisogna essere un po' aperti anche alle novità e alle necessità che emergeranno nel tempo. Il consiglio direttivo serve proprio a coordinare questo, anche se in realtà la realtà vasta non ci permette di fare proprio sempre tutto quello che vogliamo. Dobbiamo un po' limitarci anche a quello che riusciamo a fare. Cosa diresti, Don Marco, invece, anche parlavi appunto anche della realtà della Chiesa, cioè la Chiesa, appunto, ascoltare anche come la Chiesa si sta muovendo, e di conseguenza anche noi l'associazione dovrà un po' riflettere su appunto alcuni cambiamenti, alcune proposte che la Chiesa farà. Ti chiedo una cosa, ma se tu avessi, tu incontrassi per esempio un circolo, un oratorio, e ti dicesse: guardi, Don Marco, noi siamo bravi, però abbiamo tanta difficoltà di collaborare con i gruppi presenti in parrocchia, come l'Azione Cattolica, come gli Scout, come non so, altri gruppi giovanili, cioè noi facciamo difficoltà, tutto sommato noi andiamo avanti per la nostra strada. Tu cosa diresti a questo circolo? Insomma, cioè, a me preme una cosa, cioè capire che la diocesi, la parrocchia, la comunità di appartenenza è un po' la madre, è il luogo dove nasce l'associazione, cresce. Difatti i soci sono i fedeli, i quali per progettare e organizzare partono prima di tutto dal loro desiderio di vivere la fede, di essere uniti, di crescere insieme. È questo desiderio, questa volontà, il terreno nel quale spunta e cresce la pianta poi dell'organizzazione, delle iniziative e delle attività. Per cui non possiamo ignorare che ci sono altri carismi, altri servizi, che sono una ricchezza. Dobbiamo sentirci parte di una stessa Chiesa, trovare il modo di lavorare aiutandoci e rispettandoci. Poi ogni diocesi ha la sua storia e quindi ognuno deve trovare il proprio modo, ma direi di cercare una via comunionale, ecco. Bene, altre due domande e poi ti lascio, sì. Don Marco. Allora, la facciamo a tutti i nostri ospiti, che siano responsabili, che siano presidenti, che siano anche semplici, diciamo, volontari al bancone. Noi chiediamo sempre se dovessero descrivere con un oggetto il proprio oratorio, l'oratorio, la realtà oratoriale, quale sceglierebbero? Tu quale oggetto, quale immagine legheresti ai circoli padronati noi? Guarda, è un po' difficile rispondere a questa domanda. Più che a un oggetto, non mi viene in mente, penserei a dei luoghi e dei riferimenti, perché l'oratorio è casa, nel senso che è accoglienza, uno viene accolto, è chiesa perché fa parte della comunità, da dove è nato, sorto, dove è nato, insomma. Poi è scuola, nel senso che educa, accompagna, è strada perché accoglie tutti, ecco. Avrei questi riferimenti come per descrivere l'oratorio, ecco. Definirlo con un oggetto mi sembra un po' difficile, anche se con i ragazzi, con la gente, è una cosa bella magari avere un oggetto di riferimento, perché ti richiama subito un'idea. Però è troppo ampio per essere raccolto in un oggetto. Va solo. Bene, Don Marco, siamo alle porte del Natale, hai 30 secondi per lanciare un augurio natalizio a tutte le nostre realtà, a tutti i nostri oratori. Cosa diresti? Allora, buon Natale e auguri a tutti. E come Dio è stato capace di incarnarsi in noi, così dobbiamo essere anche noi educatori capaci di incarnarsi nella vita degli altri, ecco. L'incarnazione è uno stile divino, noi non siamo capaci, siamo più comodi di Dio. Lui ci ha rimesso, come dice San Paolo, si è spogliato della sua condizione per abbracciare la nostra. Quindi faccio un augurio di saper fare come Dio. Benissimo, grazie allora Don Marco Saiani, appunto presidente neoeletto di Noi Associazione e presidente di Noi Trento. Buon lavoro e buon Natale, grazie tanto. Grazie, Don Marco. E auguri a tutti i radioascoltatori. Grazie. E adesso il prossimo brano, Céline Dion con Bocelli. E ascoltando queste voci sinceramente non servirebbero parole. Comunque ringraziamo, appunto siamo alla conclusione di questa puntata di Fuori di Noi, ringraziamo la regia di Eddie Daici che ci accompagna appunto in questo programma. Ricordiamo appunto che tutte le puntate che sono state mandate in onda per quanto riguarda Fuori di Noi potete anche riascoltarle e addirittura scaricarle sul podcast programmi di www.bluradioveneto.it. Se volete invece partecipare alla trasmissione mandate un'email a fuoridinoi@libero.it o mandate un sms al 320-614-6964 con un progetto e una fotografia. Noi ci risentiamo la prossima settimana per l'ultima puntata prima della pausa natalizia. Ciao a tutti! Fuori di Noi, trasmissione sugli oratori e sul mondo giovanile, a cura di Noi Associazione e Blu Radio Veneto.